né una carezza, niente. Quasi non fossi di lor sangue. Guai, sì, io non t'amassi, povero innocente, gli scemi in casa portano fortuna, ma questo in me si sveglia. Ce n'è tanti nelle mie storie. Ah, l'ho trovato! Come due tizi accesi dall'alto del dirupo, vide su lei sospesi gli occhi del via d'un cenito la disgraziata e non tento fuggire. Fatiche il lupo l'avrebbe mangiata. Dire tempo a mangiarti avrò. Il sol tramonta, scende la sera. Quando il sol spunta di mia assai è, ed oneste ce n'è al villaggio. E chiaro come il sole. E di un bisogno avreste per trovare moglie al vostro Federico. Di cercarlo in città. Per tirarvela in casa? No, per nulla! Così, senza conoscerla dunque, padrona Rosa, consentire di salutarla, sposa del figliol vostro. Per le civette. Oh, lascia andare. Marco è un buon coi fiocchi, bel bello alla sordina. Un'occhiata di qua, di là una parolina. Facendo il gonzo il no, son certa scoprirò perfino il pel dell'uovo. Fra poco è qui verrà. Capo a piedi. non tremate, cader non potrà più. Se mai cadesse alcun da quell'altezza, cielo. Senza indugio ad indossar al cor di Natale dove farai della ragazza i genitori suoi la tua richiesta cacciatore merito par mio a naso ad ecco che filo d'affanno o fiottato o adocchiato. In fede più la preda potentosa e non mi inganno. E dunque cosa segna? Certamente. Ide giusto. Precisamente. Cercando sugli amici. Si vada dunque bene. Thank you. figlio vostro una squadrina. Badate! Credete! Badate! I suoi corpi genitor lo sanno. Capito un dì pel suo, pel mio malanno, il figlio il vostro. E allor con basse strane ingiurie cacciaron via peggio ancora. Ma questo, questo che voi dite è orrendo. Si furbo di me. Oh, turpe delle donne. Becci! Scherzi a capri.

pastor che tutto è vano tranne il morir. Thank you. Che voglio? Oh, pianger così? Perché struggersi tanto? Perché teme di perderti, si strazia di guardarti. Se il tuo dolor sei altro rimedio, taci! Piuttosto che morire, ma no, non è possibile, madre mia, che cosa sia quella donna? Tu ben sai, grande l'amor tuo che può piegarti a tanto sacrificio. Grazie, oh grazie, mi ho l'anima commossa. Ma chi non vuole, oh madre, or son io. Donna che portar dovrà il mio nome ne sarà degna, a te lo giuro e addio. Vieni, vivetto, ascolta. Sei malato, ti gioventù, salute! Tuo mare state sola. Perché tu servi qui? Non servo nulla. Sì, le lettere sue. Tu sapevi, le ho conservate e per gran tempo. Stamane Baldassarre le riportò. Terribile! sì, la maledetta relesiana, sì. Ma finalmente! Ma finalmente! Non so ben capriccio. Oh, o sì, è lui! Non restar qui! Lasciami dunque! Ancora, correre le strade, sapersi seguita, levar dalla paura, non perdermi, e non aver mai pace col guai, nella testa sono piede. Ah, e questo solco, il mio rival, questo mi fa, al mio buon vecchio penso che solo lascerò. Finalmente! E basta, è così bella! Federico! Maledetto! Federico! Maledetto! Riportarmene novella proprio in quest'ora e qui t'ucciderò. Indietro, indietro, dico! Difenditi, bandito! La notte fai! La via ti scosta! Indietro! Thank you. paura che questa notte nulla accadrà. Io solo e vigilo, ti scupisce quando il pistor che c'era si sveglia e buon pastor non si ganava. Il bimbo è sveglio, capisce, ma come avrebbe, non lo so come, ma scemi in casa non ce n'è più. Taci, taci, ahimè, ahimè, mamma, perché? Nulla. Son pazza, pazza io son. la storia del pastore. Lottò tutta la notte, ma quando il sole spuntò, si mise a terra il corpo sanguinoso. È orribile, è orribile. Sempre la vedo là, nelle sue braccia, e la bacia, e la stringe, se la porta, sfaccia le selci, le pelate zampe del suo cavallo. Ma non posso viver più, ma non posso viver più. Maledetta, ti strapperò dagli occhi miei. La stringe e la bacia, se la porta.